L'inserimento di Emir Karzai, primo presidente afghano democraticamente eletto, non ha portato grandi cambiamenti nel paese. Il voto popolare gli attribuisce una maggiore forza e credibilità e questo è un dato importante, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari previste per la prossima primavera e che gli permetterà la costituzione di un governo sicuramente più stabile ma che dovrà comunque affrontare innumerevoli problemi. E questo mentre il paese è ancora teatro di scontri violenti. L'Afghanistan resta infatti in balia di problemi di difficile soluzione. La maggior parte del paese è controllata da potenti signori della guerra, muniti di eserciti privati e ben equipaggiati, e molti di questi lucrano sul traffico di droga, di cui si contendono il controllo. Anche qui i numeri sono record. La produzione di oppio ed eroina è salita a livelli mai raggiunti, ed un recente rapporto delle Nazioni Unite dice che l'87% della produzione mondiale di queste sostanze è di fatturazione afghana. Il 60% del prodotto interno lordo del paese arriva proprio dall'esportazione di oppio ed eroina e gli introiti di questo commercio spesso finiscono nelle mani di milizie antigovernative legati ai talebani, ai miliziani di Al-Qaeda o, come si diceva prima, signori della guerra potenti e senza scrupoli. Inoltre è ancora serio il problema sicurezza. Le milizie dei talebani sono attive in varie parti del paese. L'uccisione di un ingegnere turco avvenuta la scorsa settimana è solamente un'ulteriore conferma del clima di instabilità presente in tutto il paese. L'ingegnere si stava occupando della costruzione di una strada nella provincia orientale di Kunar ed è stato fermato martedì scorso mentre dal luogo di lavoro stava facendo ritorno a Jalalabad insieme all'autista e all'interprete. Il suo corpo è stato rinvenuto il giorno dopo crivellato di colpi, mentre l'autista e l'interprete, entrambi di nazionalità afghana, sono stati rilasciati. Questo clima di tensione e di insicurezza ha reso necessaria una nuova operazione militare americana, questo anche in vista delle prossime elezioni parlamentari che si preannunciano veramente arroventate. E se le elezioni che hanno incoronato Karzai si sono svolte senza grandi incidenti, infatti, dal 9 ottobre ad oggi circa 100 persone sono rimaste vittime degli scontri. La nuova operazione militare avrebbe anche lo scopo di far accettare un'offerta di amnistia ai gruppi antigovernativi. Ultimamente l'ambasciatore statunitense aveva infatti offerto ai ribelli un'amnistia in cambio della deposizione delle armi. Questa offerta riguarda solamente i talebani non criminali, quelli cioè che non fanno parte del circuito terroristico internazionale e che non si sono macchiati di crimini contro l'umanità. Per ora è stata respinta da un portavoce dei talebani che ha parlato a nome di tutto il gruppo. Ma per fare dell'Afghanistan un paese normale, Karzai deve vincere questa sfida. Glielo chiedono la comunità internazionale che lo ha sempre appoggiato ed il suo stesso popolo. Monica Losciale, World News per Amisnet.